È un premio che è veramente importante per noi e permettimi di dire anche per la redazione di Radio Città Fujiko, perché siamo insieme da 2 anni, da quando purtroppo c'è stato il Covid, noi facciamo questa trasmissione per il carcere e la città di Bologna e abbiamo partecipato al bando della 13ª edizione del premio per la pace Giuseppe Dossetti, che è un riconoscimento per associazioni e singoli cittadini che si occupano di fare iniziative di solidarietà e di pace a livello nazionale. Il primo premio l'ha vinto un cittadino privato, è Monsignor Lorefice, e il secondo premio come associazioni nazionali siamo stati noi. Quindi siamo davvero contenti perché è anche un riconoscimento importante per tutto ciò che si fa per il carcere. Forse vale la pena di ricordare le ascoltatrici e gli ascoltatori come è nata Liberi Dentro, perché è una storia che merita di essere raccontata. Ma è una storia che merita perché è fatta di tanto cuore, in realtà. Ci sono state le associazioni di volontariato che da anni entrano al carcere bolognese della Dozza di Bologna, che insieme all'idea mia e di Ignazio De Francesco e poi altri collaboratori che fanno parte adesso della redazione, hanno lanciato l'idea di entrare con le voci, almeno quando non si poteva entrare fisicamente a fare le attività di volontariato, ma anche di insegnamento, perché all'inizio proprio anche le insegnanti del CPA, il Centro per l'Istruzione degli Adulti, avevano un programma quotidiano per promuovere le loro attività di italiano, storia, geografia, matematica sulla radio e sulla televisione. Poi da lì siamo cresciuti, il programma è diventato un programma quotidiano come lo è adesso, si è allargata anche la platea televisiva perché siamo sulle Etida TV ma anche su Icaro TV, TV regionale, e quindi questo permette ai nostri ascoltatori, che non sono solo le persone detenute, ma anche tutti coloro che sono interessati al carcere e vogliono capirne qualcosa di questo mondo, di scoprirlo insieme a noi tutti i giorni. Liberi Dentro non è semplicemente una trasmissione che parla ai detenuti, ma è proprio, come dire, una comunità, no? Pensi che questo spirito comunitario e solidale sia stato anche alla base appunto, del riconoscimento del premio? Sì, sono sicura che sia così, perché come dici tu, non è un programma solo che parla di carcere, è un programma dove c'è tanto intrattenimento e anche tanta cultura. Tu pensa solo che abbiamo un programma che abbiamo veramente simpatico, questo si chiama Chef al Fornelletto, che va in onda tutti i sabati, e è una puntata di 10 minuti sul nostro programma dove insegna a cucinare col fornelletto, che è quello che i detenuti hanno all'interno delle celle, e quindi si fanno ricette con questa cosa semplicissima. Ma da uno chef Marcone del FOMAL di Bologna, che quindi collabora con noi da 2 anni, che fa questa cosa. Quindi sì, c'è tanta solidarietà, questa è solo una delle tante cose, anche Antigone per esempio, c'è il CEFAL, c'è la Papa Giovanni XXIII che fa vedere quello che fanno con le comunità di recupero, perché poi c'è anche tutto questo aspetto delle comunità di recupero per tossicodipendenti. Quindi c'è veramente tantissimo nel nostro programma e noi siamo contenti di aver vinto insieme questo premio. Una domanda sui destinatari, appunto, i destinatari ovviamente non è solo gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma sono appunto i detenuti e le detenute. Che feedback avete avuto da loro? I feedback sono principalmente le lettere, attraverso il servizio email che ha il carcere, che si chiama Mai Dire Mail. Avremmo l'intenzione, questo è un sogno nostro nel cassetto, di fare la redazione anche all'interno del carcere con loro, un po' come da 10 anni fa l'associazione Ne Vale la Pena, che fa parte del Poggeschi per il carcere, che ha una redazione però giornalistica scritta con i detenuti. Noi vorremmo fare radio e TV con loro. È un po' più complicato, lo capisco, perché fare entrare i mezzi di comunicazione così importanti come radio, televisione e internet, soprattutto all'interno delle carceri, non è semplice, anzi, però ce lo siamo posti come obiettivo. Potrebbe essere una sfida, no? Per il futuro. Assolutamente sì. Quando ci saranno le premiazioni? Allora, la premiazione sarà il 13 di maggio alle ore 10 in Piazza Prampolini a Reggio Emilia, quindi saremo premiati, faremo un piccolo discorso di introduzione, ci saranno anche ragazzi delle scuole superiori di Reggio Emilia a cui potremmo raccontare quello che facciamo e ovviamente tutti i membri delle istituzioni.